Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue. La stampa, il futuro è quotidiano. Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Auf den Flüsse, da Winterreise, di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e sto facendo con voi da qualche puntata un viaggio nel Lied schubertiano. Oggi la parola viaggio capita particolarmente a fagiolo, diciamo, perché incominciamo a vedere insieme alcuni dei leader del ciclo più straordinario che Schubert ha composto, cioè della Winterreise, Winterreise ovvero Viaggio d'inverno. Al centro c'è la figura del Wanderer, del viandante, la figura cardine del romanticismo tedesco, colui che lascia il mondo e che in solitudine se ne va, che non ha meta esatta. Qual è la storia? La Winterreise è composta da 24 leader, non è un numero casuale, perché in realtà questo ciclo assume le proporzioni e l'importanza dei grandi cicli di 24, come i preludi e fuga di Bach e come poco dopo i 24 preludi di Chopin, eccetera. In quei casi aveva riferimento con le 24 tonalità, in questo caso assolutamente no, è che Schubert ha scelto 24 testi da questo poeta suo amico che si chiama Müller, che noi conosciamo solo attraverso l'operazione straordinaria fatta da Schubert. Qual è l'assunto della Winterreise? Lo capiamo strada facendo dei testi. Questo viandante è un innamorato, almeno questo fuori di metafora, poi nella metafora in realtà si capisce chi potrebbe essere l'amata, il rapporto e poi alla fine con la morte. In ogni caso questa innamorata lo ha lasciato e quindi lui parte. Significativamente parte d'inverno questo viaggio, siamo giunti alla desolazione estrema, l'assunto schubertiano, abbastanza leopardiano, tra l'altro sono gli stessi anni dei leopardi. Questo viaggio ha la proporzione e la profondità del viaggio dantesco, ma il viaggio di Dante della Divina Commedia è nella fede. Il viaggio di Schubert è nel nero, nel freddo, nel buio, nel ghiaccio, nell'ostilità dell'ambiente, tutto gli ostile. È solo e l'unica cosa in cui può sperare, l'unico punto d'arrivo del viaggio è la morte. Ma c'è qualcosa che salva Schubert ed è il canto, la bellezza del canto, una capacità di melos irraggiungibile nella storia della musica. Noi oggi partiamo dal settimo di questi leader, che si chiama Auf den Fluss, e l'ho scelto anche per continuare a parlare di leader legati in qualche modo all'acqua, significa sul fiume, e l'ho scelto anche perché mi permette di continuare un discorso sull'argomento base di questi giorni, cioè sul rapporto testo-musica, sul modo in cui Schubert sceglie il rapporto testo-musica. Anche in questo caso, come in altri già visti, anzi forse ancora con più forza che in altri casi, Schubert legge il testo in maniera, come dire, parziale e direzionata, individua un nucleo centrale che è la quinta delle cinque strofe e su questo basa l'intera costruzione formale del Lied. Come si fa a dare particolare sottolineatura a una strofa soltanto? Innanzitutto con le proporzioni. Questo Lied è fatto di 74 battute, il testo è fatto di 5 strofe. Bene, le prime 4 strofe sono esposte in 40 battute, 40 su 74 è poco più della metà, la metà sarebbe 37, il che vuol dire che le restanti 34 battute, poco meno della metà, sono soltanto sulla quinta strofa che viene reiterata, ripetuta, ma non soltanto ripetuta. A quel punto la musica agisce a spirale, è sempre più intensa, sempre più ricca dal punto di vista armonico, l'armonia incalza, la dinamica incalza, l'articolazione pianistica incalza mediante ripetizioni parziali o totali di quel testo. È impossibile non capire che lì vi è il centro di interesse di Schubert. Ma a questo punto, qual è questo testo? Vediamolo insieme. Vi separerò una strofa dall'altra con un breve silenzio per farvi capire il passaggio appunto di strofa. Chiaro fiume vigoroso che scorrevi allegramente, come taci ora senza neanche un addio. Ti sei ricoperto di dura e rigida corazza, freddo e immobile giaci disteso nel tuo letto. Nella tua coltre incido con pietra aguzza il nome del mio amore e il giorno e l'ora. Il giorno del primo saluto, il giorno in cui partii, intorno a nome e date sta un anello spezzato. La famosa quinta strofa. Mio cuore, ti riconosci ora in questo ruscello? Forse anche sotto la sua lastra di ghiaccio c'è tanta agitazione. Questo è il testo e questo è lo scarto finale che avviene in questo testo, cioè qual è la tematica, qual è l'assunto? Credo sia abbastanza facile intuirlo. C'è della retorica in tutto ciò, c'è un gioco forse un po' seicentesco. Il contrasto, il fiume è ghiacciato attualmente perché è inverno, ma sotto si intuisce lo scorrere della corrente, anzi forse quella corrente che scorre sotto potrebbe essere ancora più forte in quanto tappata dal ghiaccio. Ed è continuamente basato sul rapporto passato-presente, no? Chiaro fiume vigoroso che scorrevi come taci ora, ti sei ricoperto di dura corazza, eccetera, eccetera. Quindi il contrasto è tanto maggiore la fissità, la rigidità esterna, tanto maggiore è l'inquietudine, l'energia, ma l'energia in questo caso vista in senso negativo, l'inquietudine, l'agitazione interiore, da cui la metafora finale. Mio cuore, sei anche tu come lui, come questo ruscello, tu sei gelato fuori, appari estraneo a tutto e ormai lontano da ogni emozione, ma forse sotto sotto anche tu sei come lui. Ovviamente è una domanda retorica. Infatti, su quella strofa si allargherà, la musica diventerà sempre più inquieta. Direi che possiamo incominciare ad ascoltare le prime 13 battute di questo lead, e cioè l'introduzione pianistica e la prima strofa del testo. Der du so lustig rauschtest, heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Bitter. Ho lasciato l'attacco della seconda strofa per farvi sentire quella leggera increspatura musicale che fa il pianoforte alla fine, quegli accordi pam pam pam pam pam pam pam pam che hanno un ritmo più veloce di quelli precedenti. Allora, come fa un compositore a mettere in scena musicalmente questo assunto? Perché non si tratta di accostare due cose diverse, ma si tratta di fare un morphing, di trasformare quel ghiaccio, quella superficie raggelata in qualcosa di estremamente inquieto e poi di richiuderlo perché l'uno e l'altro sono insieme, il ghiaccio è sopra la corrente e l'apparente freddezza del cuore è dovuta esattamente a una sorta di autodifesa, di forma di difesa rispetto a una particolare agitazione interiore. E allora si parte quasi paradossalmente da una superficie musicale così rarefatta, così asciutta, da essere quasi un archetipo, quasi paradossale, insomma, questa articolazione sembra veramente quella di un bambino al pianoforte, questa... Ed è Schubert stesso a scrivere pianissimo staccato, anzi io forse l'ho fatto, forse bisogna fare così, io non sono un pianista. Vuole che sia staccato, non vuole l'uso del pedale evidentemente, deve essere tutto secco, tutto appoggiato al silenzio, quasi un silenzio, non solo, ma l'inizio è anche quasi paradossalmente semplice sul piano armonico, una semplicissima cadenza di B minore, tranquilla, quella da che si potrebbe fare in esercizio di armonia, però, e qui c'è un però, all'interno di questa articolazione così semplice, è un pianismo estremamente semplice, di questa armonia estremamente semplice, c'è un passaggio da sottolineare, un passaggio semantico da sottolineare. Il testo dice, ripeto, chiaro fiume vigoroso che scorrevi allegramente, come taci ora, senza neanche un addio. Ed ecco che nel punto in cui deve cambiare di segno, come taci ora, da questo momento di cadenza c'è qualche cosa di molto forte. In realtà il passaggio armonico è un vero e proprio scivolamento, cioè in un attimo, e questa è la magia armonica di Schubert, si passa da un tranquillo Mi minore con delle cadenze tranquillissime e semplicissime, con una sola nota, si passa un semitono sotto, si passa a Re diesis minore, cioè un tono lontanissimo dal precedente. E la cosa è tanto più stridente quanto più avviene in un'articolazione pianistica semplicissima e in un'armonia che fino a lì era stata semplicissima, e però così abbiamo già messo in scena il contrasto che è la base dell'intero lead. C'è poi il secondo elemento, quella quartina che vi ho detto prima, quegli accordi più veloci che arrivavano alla fine, che sono come una crepa nel ghiaccio, cioè questo ghiaccio incomincia a incrinarsi e mostrare che ha un brivido all'interno. Vi è una seconda strofa che è uguale alla prima, tra l'altro anche questo è un rapporto interessante e importante da sottolineare. Nella seconda strofa, che è uguale alla prima, vi è lo stesso scarto armonico che ho sottolineato poco fa, naturalmente non corrisponde più a un analogo scarto di testo, perché dice ti sei ricoperto di dura rigida corazza, freddo e immobile giaci, disteso nel tuo letto. Cioè il significato rimane uguale, ma quando si dice scelta del compositore, ha scelto una volta di sottolineare quell'evento, lo lascia uguale, anche se ora non deve sottolineare più nulla. Ma stavolta, alla seconda volta, quegli accordi più veloci in realtà innescano qualche cosa di importante, un cambio di modo, si passa in maggiore, si passa in un modo molto più solare e luminoso, e sentirete che anziché fare zumpa, zumpa, diventa zumpa, pappa, pappa, zumpa, pappa, pappa, cioè incomincia a smuovere la staticità articolativa e poco dopo diventa zumpa, scusate lo zumpa è un po' ridicolo, ma insomma smitizziamo, zumpa, pappa, pappa, pappa, e cioè la quartina diventa sestina, ci si muove sempre di più. Soltanto prima di ascoltarlo un piccolo commento, quando si passa in maggiore, questo è un luogo comune di molti leader della Winterreise. La Winterreise è basata tutta su un rapporto tra un presente ghiacciato e terribile e momenti di eco di un passato sereno, di primavera, di calore, di rapporto d'amore. Ecco, questo passaggio in maggiore avviene nelle due strofe che dicono nella tua coltre incido con pietra aguzza il nome del mio amore, il giorno e l'ora, il giorno del primo saluto, il giorno in cui partii, eccetera. Naturalmente, siccome finisce con intorno a nome e date sta un anello spezzato, quel maggiore sta per fare una brutta fine. Ascoltiamo questo maggiore. Begrab ich mit einem Spitzenstein den Namen meiner Liebsten und Stund und Tag hinein, den Tag des ersten Grußes, den Tag, an dem ich l'armonia alla fine ha richiuso sul minore, perché quell'anello è spezzato e lì è riportata anche la data della partenza, cioè dell'abbandono. Ma ormai il movimento ha fatto capolino, quell'asciutto dell'inizio è diventato questo, ad esempio. Cioè ogni nota dell'inizio è spezzata in tre semicromi di terzina, pa, pa, pa, pi, pi, pi, pe. Cioè l'agitazione incomincia a farsi strada e si è fatta strada attraverso l'emozione del ricordo del maggiore. Siamo così arrivati a battuta 40 e siamo così arrivati al fatto che si cambia di segno, arriva la quinta strofa, mio cuore, ti riconosci ora in questo ruscello. Ecco, come ho detto già a proposito di altri leader, entra in scena il discorso diretto, anche se in questo caso il discorso diretto è autorivolto, cioè ci si rivolge a se stessi, cioè al proprio cuore, eppure la voce che canta improvvisamente non è più il cantante del lead, ma è il personaggio, è il viandante che dice mio cuore, ti riconosci in questo ruscello forse? Che cosa succede musicalmente? Succede che la voce si stacca dalla musica, il pianoforte riassume... Riconoscerete nella linea del basso quella che all'inizio era la linea vocale. Cioè il tema è passato al basso ed è passato al pianoforte. La voce è diventata qualcuno che è diventata una commentatrice dell'evento, è fuori. E i suoi interventi sono inseriti tra pause, sono spersi nelle pause, perché si sussurra piano piano mio cuore. ti riconosci ora in questo ruscello, cioè si è fuori dallo scorrere, dal flusso ritmico della musica, lo si guarda, lo si commenta e ci si pone una domanda. E poiché la risposta è tragicamente sì, mi riconosco in questo ruscello, sotto il mio ghiaccio esterno, sotto la mia freddezza, l'agitazione è forte, ecco che improvvisamente la musica cambia di segno. Attenzione, non è che cambi di segno, si trasforma. Il tema è sempre lo stesso di prima, però incomincia una girandola di modulazioni. Adesso sentiremo la prima, poi la commenterò e la commenteremo le successive senza farle sentire subito, ma rivolgendoci all'ascolto finale. Il tema è lo stesso, ma incomincia a vagare armonicamente, non solo, ma anche quelle sestine. Ricordatevi che il movimento che era pa pa diventato poi pa pa pa pa, poi pa pa pa pa pa pa, adesso diventa vero e proprio pugno alla tastiera. Sono delle biscrome, bisogna suonarle meglio di come le suono io, ma le sentirete tra poco, e il contrasto è che è diventato così. Lo sentirete forte, lo sentirete violento, lo sentirete come una manata, perché adesso è una sorta di protesta, forse anche sotto la sua lastra di ghiaccio c'è tanta agitazione come nel mio cuore. Questa cosa esploderà nel tono lontanissimo di sol diesis minore. Adesso ascoltiamo il ritorno al minore, il passaggio al discorso diretto con quel mein Herz, mio cuore, sospeso nelle pause, e l'improvvisa esplosione sulla seconda parte della strofa, cioè dove si parla di tanta agitazione, dove risentite il tema ma lo risentite in altro tono, cioè in sol diesis minore. Mein Herz in diesem Bache. Kennst du nun dein Bild, ob's unter seiner Rinde wohl auch so reißend spielt, ob's wohl auch so reißend spielt. Fare qualche considerazione sull'armonia, anche se è un po' tecnica, in questo caso è un pochettino inevitabile, mi perdonerà qualcuno, ma cercherò di essere chiaro e aiutarmi col pianoforte. Tutta la prima parte del lead, in fondo, è stato molto statico armonicamente, eventualmente ha giocato soltanto, come abbiamo sentito prima, su quella modulazione all'interno della strofa per dare il senso del passaggio tra tu scorrevi e adesso non scorri più. Ma per il resto era un mi minore con una specie di scivolata locale a re diesis minore. Adesso incomincia la spirale. Sono le 34 battute finali, quelle che ripetono ossessivamente quella domanda, e qui dovete capire qual è la ricchezza della musica rispetto a un testo. Se io leggo questa strofa e leggo «Mio cuore, ti riconosci in questo ruscello, forse c'è anche sotto la sua lastra tanta agitazione», sì, va bene, è pesante, ma se io lo dico 3, 4, 5 volte e in maniera sempre più veloce, e la musica è più veloce non nel senso che cambia tempo, ma nel senso che modula sempre più spesso e sempre a toni più lontani, ecco che ho un mezzo a disposizione fortissimo per dire che il centro d'attenzione era questa domanda ossessiva. Questa è l'agitazione che c'è sotto la mia freddezza. Come fa Schubert, quindi, in questo caso? Unisce, ripete, per meglio dire, ossessivamente il tema. Il tema è questo. Però è entrato fino in sol diesis minore. Poi torna mi minore, poi va a fa diesis minore senza fare il tema, diventerebbe così, torna mi minore, va a sol minore. Voi capite, adesso non importa se uno sa che cos'è sol minore o sol diesis minore, importa sentire che nelle proporzioni e nel modo di dare a spirale queste modulazioni l'inquietudine è sempre più forte. Vi posso dare le proporzioni, queste sì sono molto evidenti. Quando è ritornato il minore che avete sentito, è quello cui dice mein Herz, rimane per 7 battute mi minore, sempre con il passaggio rapido a re diesis, passa a sol diesis minore per 6 battute, quindi attenzione, 7 in mi, 6 in sol diesis, poi 6 Mi minore e poi adesso attenzione, 2 in Fa diesis minore, 2 in Mi minore, 2 in Sol minore e poi torna Mi minore. Vuol dire cambiare tono in maniera molto lontana nel giro di pochissimi secondi, come se il viandante si guardasse in giro e cercasse conferme intorno a lui del fatto che quell'agitazione c'è nel fiume e c'è anche in lui. A quel punto, tra l'altro, quando ascolterete tutto il lead capirete, sentirete queste biscrome, queste note veloci che si generalizzano sempre più e prendono l'intero lead, anche la dinamica al suo peso, perché qui ci si smuove dal pianissimo e si toccano dei forti. E poi c'è l'ultimo miracolo schubertiano che adesso ascoltiamo. Come fa a rispecchiare, questo è molto cinematografico, un comportamento sembra veramente un regista, arrivato al massimo della tensione, la deve spegnere perché in realtà il fiume è gelato. Ed ecco che in poche battute l'articolazione si richiude, il movimento sparisce, il tono torna a Mi minore e ci si richiude esattamente sull'inizio. Ascoltiamo il finale. Questo spegnersi finale non ha bisogno di commenti, è esattamente, ci si richiude nel ghiaccio dell'inizio. Quindi possiamo passare all'ascolto integrale del lead. Grazie e buon ascolto. Der du so lustig rauschtest, heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande ausgestreckt. In deine Decke grab ich mit einem spitzen Stab den Namen meiner Liebsten und Stund und Tag hinein, den Tag des ersten Grußes, den Tag, an dem ich ging, und nahm und zahle. Mein Herz, in diesem Bache erkennst du nun dein Bild, ob unter seiner Rinde wohl auch so leisen spielt. Kennst du nun dein Bild? Ob unter seiner Rinde wohl auch so reißend schwingt? Ob's wohl auch so reißend schwingt? Ob's wohl auch so reißend schwingt?